Ben ritrovati a Lovelace. Ritrovate di Ramarri. Ramarri e Ramarre. Benvenuti e benvenute a Lovelace, una nuova puntata, seconda puntata di questa stagione, come siamo professional, di questa anche nuova fascia settimanale, perché in realtà andiamo, forse qualcuno se n'è già accorto, comunque andiamo in onda non più giovedì ma il lunedì, un lunedì ogni due per la precisione, e intorno alle 21, intorno perché oggi per esempio è un po' più tardi. D'altra parte, tutte le volte veniamo in Wombat 3G e dobbiamo, essendo noi questa è la trasmissione degli E-Club, dobbiamo smontare e rimontare i computer da zero. Quindi sì, tipo dov'è la scheda audio, sì, dove esce, sì. Un VGA, un HDMI, sì. Sì, tutte, sì, queste cose qua sempre da zero. Cioè è come se voi doveste andare a prendere la macchina per fare la spesa e doveste rimontare la macchina. È così più o meno succede a noi. Quindi abbiate un po' pazienza, perché insomma gli orari sono un po' quelli che sono. Ma ci faremo perdonare, regia oggi abbastanza ben nutrita, abbiamo un po' di altre voci oltre quelle che avete sentito lunedì, due lunedì fa. E vi ricordo, prima di partire, i social Wombat, il nostro sito radiowombat.org, la casella di posta, postawombat@insiberia.net, e la frequenza ovviamente in onde mediocri, in onde medie, AM per un altro modo di dire, 13.59, e poi il pad della diretta wombat.vado.li, nel quale potete lasciare dei messaggi e chiacchierare direttamente con noi in diretta. Ma comunque, se anche ascoltate in differita, potete comunque lasciarci un messaggio e noi lo leggeremo. Sì, sarà un messaggio in differita, sì, appunto come il vostro ascolto, proprio per cercare di stare al passo con i tempi. No, perché siccome ho sentito altre trasmissioni che erano più bravi, che dicevano quelle cose tipo no, e poi noi vi risponderemo alla prossima puntata. Con noi non succederà, lo vogliamo subito dire, ma apprezzeremo comunque molto un messaggio in differita. Esatto. Anche perché creerà scompiglio molto probabilmente nelle prossime trasmissioni. Quindi diranno: ma che cazzo dicono questi? Cioè, ma perché ci parlano? Cosa fatti, esatto. Quindi fatelo. Un messaggio in bottiglia, fondamentalmente. Sì, sì, sì, sì, sì, un bel messaggio in bottiglia. E oggi, quindi, venendo a noi, arrivando al nocciolo della questione, oggi parliamo di un argomento di cui potremmo parlare probabilmente all'infinito. Tanto proprio dibattendo, litigando e scontrandoci potenzialmente. La trap. No. No, vabbè, in verità no, lì non c'è da discutere. No, parleremo. Oggi proviamo un pochino a snocciolare l'algoritmo, la grande parola che affligge la comunicazione, le coscienze. La sinistra italiana. Sì, sì, sì, sì, non solo, però comunque sia massicciamente, ecco, di una parte dell'intelligenza, ok, di sinistra e anche sulla carta nemmeno così lontana tendenzialmente dai nostri ambienti. Scusa, sì, ti interrompo subito, più che poi soltanto dell'algoritmo in particolare, perché poi io ho in mente, almeno io, di fare anche proprio una puntata a sé stante proprio parlando male di chi parla dell'algoritmo, quindi poi anche su quello ci dedicheremo. No, ok, dedichiamo l'ultima parte sicuramente a un sacco di offese, esatto. Non vi preoccupate. Però in realtà parleremo un po' più, anche un po' più in generale, anche di quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Esatto, esatto. Sì, infatti proviamo un pochino a partire snocciolando la questione appunto su l'accezione che se ne dà contemporanea e quella che effettivamente è più realistica e in un certo senso anche scientifica dell'algoritmo. Cioè noi tendenzialmente siamo abituati a sentire, l'algoritmo, proprio il singolare maschile, viene citato regolarmente in genere come forma di deterrenza per le nostre ignoranze, inconsapevolezze o per le nostre manie di individualismo, quando ci sentiamo perseguitati da un motore di ricerca, dal video suggerito da YouTube o da tutte queste cose qua. Dal datore di lavoro e fondamentalmente quindi tendiamo ad associare ad algoritmo un groviglio complottista fumoso che altro non è che una serie di informazioni di istruzioni in sequenza che una dopo l'altra processano una serie di cose e in maniera automagica in genere arrivano a avere una predizione, quindi una predizione che può essere la tua canzone preferita, il sito di tuo maggiore interesse o che ne so, cose del genere. Sempre per provare un pochino a capirci sempre di più, il grande successo di Google alla fine degli anni 90 deriva da appunto la creazione di un algoritmo che era, correggetemi, perché mi ricordo che è una questione dell'indicizzazione, insomma, delle varie pagine che componevano il web, però insomma ecco... il fatto che il web da un certo punto, da un momento in poi, venisse cercato in maniera apparentemente ordinata, che funzionava. Il motore di ricerca, che ce n'erano tanti altri, a questo effettivamente a un certo punto ha iniziato a funzionare. Esatto. Trovavi le cose. E quindi, insomma, diciamo, quello lì è comunque sia una forma predittiva, cioè io do un input, una parola chiave e mi viene suggerito il sito probabilmente che sarà più simile, più prossimo a quella parola chiave. Questo per dire che appunto comunque sia l'algoritmo ovviamente ha una storia, cioè considerato come l'algoritmo può essere definito in senso del tutto generico come una serie di istruzioni in sequenza, ognuna delle quali un input e un output che si concatenano, volendo un po' vedere come algoritmico anche un bue attaccato a un gioco che ci gira intorno, e tutto sommato lo è. Questa è, mi voglio subito bruciare, io intendo come algoritmico ogni aspetto meccanico, cioè in cui c'è una serie di istruzioni che sono replicabili, hanno una durata finita nel tempo e convergono verso un risultato. Questo è un punto che appunto ora cerchiamo di snocciolare. E questo però, per quanto riguarda quello che viene appunto, quello che poi è di fatto un algoritmo, quello che sono gli algoritmi che stanno alla base di tantissimi sistemi che poi vediamo e non vediamo, e invece quando si parla di intelligenza artificiale, proprio per provare a dare un, come dire, una definizione anche alle parole che poi compaiono sui giornali, che troviamo, che sia. Quando invece si parla di intelligenza artificiale, cosa intendiamo? Allora, appunto, cioè, l'altra faccia dell'accezione che si dà in senso comune appunto dell'algoritmo è proprio quella dell'intelligenza artificiale, esatto, che ha in verità una storia molto lunga, almeno sicuramente nel Novecento, ma a dire il vero che si estende anche fino al Medioevo più o meno, in cui appunto si cerca di risolvere dei problemi formali che hanno e in genere diciamo l'intelligenza artificiale nasce nel tentativo di risolvere un problema umano tramite un approccio procedurale meccanico. Esistevano delle calcolatrici completamente meccaniche, cioè prive di elettricità, eccetera, eccetera, nel 700 e nell'800, che riuscivano a fare le radici quadrate. Quelle erano forme rudimentalissime di intelligenza artificiale, in cui fondamentalmente si proiettava dentro gli ingranaggi di queste calcolatrici, che erano meccaniche, il concetto del tutto umano di addizione, sottrazione, moltiplicazione e via andare. Gli scacchi, anche un altro tipo, il gioco degli scacchi. Assolutamente, una cosa che tanto mentre preparavamo la puntata non abbiamo citato, ma è stato in effetti uno dei un punto, ecco, la sfida tra l'uomo e lo scacco meccanico, ecco, divenne piuttosto celebre verso l'inizio degli anni 90, però appunto ci arriviamo. Quindi diciamo che il tentativo dell'uomo di procedurizzare, si dice così, credo, una serie di istruzioni, in verità ha una storia piuttosto antica. Un momento, diciamo, forse più significativo del Novecento, in cui l'intelligenza artificiale torna a farsi sentire in maniera circoscritta, chiara, ripetuta e anche sognatrice, quindi verso il futuro, è la prima metà del Novecento, tra l'altro in concomitanza con l'esplosione delle comunicazioni radio, dei sistemi di criptazione militare sempre più raffinati, sia nella criptazione che nella decifrazione di questi strumenti. Insomma, tra gli anni 30 e gli anni 50 dello scorso secolo c'è una nuova esplosione, insomma, del intellettuale, di ricerca e di applicazione di quello che riguarda le intelligenze artificiali. Diciamolo subito, si sta parlando fondamentalmente di Turing, ad esempio, come campione di questo periodo per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, sia appunto negli aspetti applicativi con Enigma e la decifrazione dei messaggi della Luftwaffe tedesca, al concetto della macchina di Turing, che è o del test di Turing, appunto, come spesso viene citato, che altro non è appunto che un test che, nonostante si dica test, uno si aspetti una prova e realistica con delle istruzioni, appunto, invece è un aspetto concettuale in cui si cerca di capire, cioè si valuta se una macchina riesce a fingersi umana, cioè quanto una persona sia in grado di riconoscere una macchina come una macchina. Nel caso in cui la macchina, diciamo, riesca a fingersi effettivamente bene persona, la macchina ha passato questo test. Ricorderete uno per avere un esempio diretto, facile, veloce, ricorderete la scena famosa di Blade Runner, in esatto, cui l'androide si sottopone al test di Turing E ci si accorge in questa maniera che quella persona è un androide, e così poi su quello ruota un po' tutto il film. Esatto. E niente, quindi diciamo, in questo periodo c'è questa nuova, se vogliamo, primavera del concetto di intelligenza artificiale, fortemente legata allo sviluppo tecnologico di quel periodo, quindi in senso energetico, cioè l'elettricità cambiava il mondo in maniera costante e portava, ad esempio, per le prime volte appunto iniziavano ad esserci gli archetipi dei computer, quindi della binarizzazione più che digitalizzazione del calcolo, eccetera, eccetera. E, un punto che però ancora era centrale, diciamo, in un certo senso, fino a quel momento là, era che tutti gli studiosi di intelligenza artificiale, o comunque sia chi creava l'immaginario dell'intelligenza artificiale, la intendeva come mimesi dell'aspetto umano, cioè come una fondamentalmente l'intelligenza artificiale era vista come uno strumento che avrebbe facilitato certe operazioni che erano annose, lunghe o noiose per un essere umano, e venivano fatte più velocemente, più volte in sequenza da una macchina. Una sorta di uomo migliorato, di essere umano migliorato, sì, più, esatto, più restante, più efficiente, più... Sì, guarda, esattamente, cioè il concetto di efficienza e di efficacia è esattamente quello centrale, tra l'altro appunto con il grande sviluppo dell'ingegneria del Novecento, in cui appunto i termini cardine diventano efficacia ed efficienza, cioè non solo il risultato ma quanto ci hai speso e quanto l'hai fatto veloce. Fordismo. Eh beh sì, però questo è, diventano, cioè il fascino verso l'intelligenza artificiale è principalmente legato non alla stupefacenza del risultato in sé, ma alla velocità con cui veniva ottenuto, a questo aspetto di mimesi, non di creazione o comunque sia forme proattive, ecco, che invece aleggiano molto di più nelle nostre paure contemporanee. Lo stesso Asimov, in un certo senso, quando ad esempio scrive Io Robot, cioè nelle tre regole fondamentalmente proietta le debolezze umane, cioè non proietta, cioè non è la fantascienza, oddio, ora non voglio la sparo grossa, come almeno come me la immagino io, in cui fondamentalmente c'è un autore, un'attrice, insomma, che completamente scureggia con il cervello, crea un immaginario del tutto inesistente e magari plausibile in universi paralleli. Lì c'è una forte attinenza comunque sia alle debolezze, alle debolezze proprio intellettuali, nel senso di capacità di ragionamento dell'essere umano. Quindi, passato questo momento verso la metà del Novecento, comunque sia c'è una forma, cioè diciamo uno stallo per quello che riguarda lo sviluppo di queste tecnologie, anche perché negli stessi anni la corsa allo spazio e la biologia, diciamo, erano centrali un po' negli interessi di hype del tempo, e l'intelligenza artificiale, ad esempio, poteva essere vista in questi ambiti proprio come strumento più che come oggetto di interesse generico. In questi anni poi per le primissime volte appunto si parla di neuroni artificiali, seguendo proprio il concetto di mimesi, ecco, insomma, di quello che noi concepivamo come intelligente, e si ricreano, si provano a ricreare sia a livello hardware che a livello appunto procedurale per le prime volte il meccanismo, almeno per quello che era concepito al tempo, del funzionamento del cervello. I risultati ovviamente furono grandi cilecche, però inizia a esserci appunto l'idea del neurone come elemento atomico del ragionamento che si va a comporre con tantissimi altri e va a, diciamo, appunto a comporre un sistema complesso in grado di fare il ragionamento, asserzioni, giudizi, eccetera, eccetera. Anche perché alcune cose del cervello non si riuscivano a capire, come ad esempio l'intuito, cioè certi problemi. Il senso comune. Che poi ci arriveremo, insomma, sì, sì, che sì, però sì. Rimanevano e rimangono ancora probabilmente dei dilemmi, perché non si capisce, cioè è chiaro che su certe cose è più facile in qualche modo, come dire, sintetizzare anche il ragionamento dell'essere umano e quindi farlo fare una macchina sostanzialmente. Su altre cose invece ancora ci si chiede come l'essere umano faccia arrivi a quelle conclusioni o comunque come avvenga, e quindi chiaramente quello diventa un dilemma dove è difficile poi, e ancora non ci sia, siamo ben lontani dalle soluzioni. Assolutamente, anche perché c'è un rapporto molto stretto, forse ovvio e sempre troppo poco spesso citato, relativo insomma al rapporto che c'è tra l'intelligenza artificiale e il contesto tecnologico in cui questa si sviluppa, cioè gli strumenti che erano a disposizione in quegli anni, tra gli anni 30 e gli anni 40 dello scorso secolo, ovviamente potevano concedere delle forme estremamente rudimentali di simulazione hardware del cervello, cioè proprio di ricreare una sinapsi o anche semplicemente serie di operazioni molto semplici una dopo l'altra. Io non ce la faccio a non citare un episodio dei Simpson dove lo scienziato matto negli anni 70 dice tra 100 anni i computer saranno 100 volte più potenti e 100 volte più grandi. Questo non è stato, ecco. Però per quanto banale e scemotto in un certo senso, però la fisicità degli strumenti era un aspetto, in particolare un aspetto insomma non sottovalutabile. Questo per dire insomma che per quanto potesse essere raffinata la teoria, poi nella pratica la sperimentazione trovava tantissimi paletti. Questo ci porta a l'ultimo, questo aspetto qua secondo me ci concede di arrivare all'ultimo, la penultima, diciamo, tranche di sviluppo dell'intelligenza artificiale, che è quella che in maniera un po' arbitraria, però nemmeno troppo, abbiamo deciso di far coincidere con l'inizio degli anni 90, dove fondamentalmente la diffusione sempre più massiccia dei computer, un internet che diventava sempre più diffuso e in particolare il lavoro di un ricercatore tale Jan LeCun, che attualmente lavora a Facebook Meta, fece nascere questo interesse verso le intelligenze artificiali. Fondamentalmente questo nuovo interesse era rinato grazie alle nuove possibilità di calcolo, cioè la possibilità di nuovo di fare tramite l'hardware, ecco, insomma, di vagliare di nuovo certe possibilità. Cioè i calcoli non sono diversi e che ne puoi fare di più. Sì, esatto, esatto. Consideriamo appunto che sempre per cercare un po' di contestualizzare poi quali sono i problemi, perché in effetti ad esempio, non so, tra i test di Turing ci sono delle riflessioni molto interessanti, etiche, morali sul cervello, ma appunto lui effettivamente poi lo poteva testare in... cioè indecifrare in dei 1 e degli 0 mandati dagli aerei tedeschi, cioè è difficile farci un'antologia o costruirci insomma un ragionamento anche un pochino più sofisticato. Io direi che forse possiamo mettere uno stacco così. Sì, e poi continuiamo con gli anni 90, sì. Per dare un attimo di respiro e far. E a proposito di anni 90. I pavement. Sì, esatto, mettiamo. Tagliati i capelli. Tagliati i capelli. Cut your hair. Chiaramente fuori dai microfoni continuavamo a parlottare, a confrontarci su queste cose, che è un argomento che, come immaginerete, stimola molto noi nerd. Sì. Tra l'altro pensavo così mentre parlavi, che mi rendo conto che certe cose a noi scandalizzano particolarmente. Nel senso, per esempio, il dire vabbè, ma questa roba non è nuova, oppure il dire ma questa cosa qui non è interessante tecnicamente. Per noi è una barriera. Cioè è il dire basta, parliamo d'altro, no? Sì. Effettivamente per molte è persone sexy. Non è interessante. Per molte persone invece magari il dirgli guarda che comunque queste persone ci riescono ad arrivare a quel risultato nonostante lo facciano in una maniera grezza che a noi fa schifo, loro ti dicono sì, vabbè, ho capito, però prima non ci riuscivo, adesso ci riesco. Cioè. Sì, no, allora mi sembra molto ragionevole come punto di vista. A me personalmente, ad esempio, la cosa che mi fa proprio impazzire è il raccontare questa, insomma, questa presunzione di assolutezza, di generalità, certo, di totalità. Cioè, in verità, io magari può capitare di trovare alcuni di questi oggetti che hanno delle performance incredibili, o che fanno delle cose pazzesche, o delle scimmie che riescono a giocare a ping pong, non lo so, scimmie robotiche, le ho viste l'altro giorno, è una cosa assurda. Boh, sì, però appunto pensare poi di astrarre questi esempi a, insomma, a dei concetti generali mi sembra veramente, ma proprio ridicolo, cioè, quindi sì, davvero anche a me mi cala l'interesse. Un po' da imbonitori, sì. Sì, no, è proprio una fregnaccia, cioè, non è questo il punto. E tra l'altro, appunto ora ci arriviamo. Perché insomma siamo arrivati, dicevamo, insomma in questi anni 90, dove il machine learning che ci viene propinato di continuo di questi giorni viene a questa rinascita dagli anni 50, diciamo 60. Ora ti tocca spiegarcelo, cos'è il machine learning. Il machine learning. Diccelo. Sì, che questa è affascinante come parola. Sì. Ma è tutta nomenclatura per vendere, Però vabbè, insomma, noi eravamo rimasti a queste macchine che diciamo riuscivano a svolgere dei compiti o serie di istruzioni, quindi algoritmi, in senso mimico, e riuscivano a farlo, cioè questa mimesi in un certo senso era, cosa vuol dire? Cioè che si proiettava la conoscenza umana tramite delle regole che venivano appunto applicate in queste istruzioni, cioè quantomeno si proiettava in queste procedure quello che l'essere umano aveva capito. Cioè, appunto, che ne so, si diceva prima i calcoli assicurativi, niente di incredibile, cioè la vita di un uomo medio degli ultimi tre secoli che lavora in una fabbrica è tristemente facilmente prevedibile nella sua durata media, cioè questi sono semplici algoritmi, però in questo senso, per quanto sia atroce questa applicazione, l'aspetto algoritmico è appunto una proiezione del fatto che sulla base di un sacco di dati degli ultimi anni sappiamo che se lavori in fabbrica probabilmente ci rimani, oppure ci rimane qualcosa, oppure hai degli infortuni, e quindi, che ne so, a livello assicurativo c'è un altro impatto, un altro coefficiente proprio... di bonus, malus, come si chiamano quelle robe là. E questo è, diciamo, ora questo qui era un esempio, sempre invece, che ne so, per quello nelle cifrature o decifrature di Turing, invece si trattava di capire fondamentalmente invece il sistema di traduzione, cioè, quindi a meno che tu non avessi effettivamente capito quale era il sistema di traduzione, poi te non lo potevi mettere nel sistema di decifratura, quindi dovevi averlo a priori, dovevi dedurlo, cioè sì, però comunque sia in un certo senso l'uomo, l'essere umano mantiene un aspetto comunque sia di controllo demiurgico, se vogliamo, diretto, esplicito sulle procedure. Negli anni 90 invece proprio per questa rinnovata potenza di calcolo che ritorna, con internet iniziano a distribuirti sempre più dati, torna invece di moda quello che era un concetto invece semplicemente astratto, era rimasto astratto, quello di far sì che addirittura le istruzioni dell'algoritmo fossero imparate automaticamente, fondamentalmente facendo vedere ad un algoritmo grezzo ripetutamente serie di dati e facendo sì che l'algoritmo da solo imparasse le regole, i contorni in cui prendere o fare delle decisioni o fare delle predizioni. Una cosa, cioè una delle prime applicazioni, ad esempio, in cui questa cosa fu applicata negli anni 90, era il riconoscimento delle cifre nei documenti bancari. Cioè venivano creati dei dataset in cui c'erano dei documenti scritti a mano da delle persone che erano classificati anche diciamo da un ground truth, cioè da il vero vero di quel documento accanto, e si faceva sì che processando queste immagini di continuo alla fine si arrivasse a predire il vero numero, cioè lo quello sai che c'era scritto. Questa cosa, cioè, proprio istintivamente ci porta al captcha, vero? Sì, sì. Cioè, è difficile, è difficile scappare il nostro captcha. Captcha. Mi è fatto venire in mente, per esempio, quando compili i bollini, i bollettini sulle poste che devi fare dentro i quadratini e devi scrivere. Sì. Che effettivamente, poi è una congettura mia, serve proprio a ciò, cioè a rendere le lettere spaziate. Formata, sì, formati almeno, cioè ora... Semplifichi un attimo. Semplifichi, sì, esatto. Però insomma, diciamo, quindi questi qui erano i primi esperimenti in cui si tentavano di fare questi apprendimenti automatici, certo. Che appunto in soldoni, machine learning significa questo, apprendimento automatico, cioè far sì che il sidetto algoritmo impari le sue regole automaticamente guardando gli stessi dati che su cui dovrà fare delle predizioni o insomma queste robe qua. E quindi c'è questo nuovo periodo di fortuna cioè ottiene fortuna proprio grazie a delle applicazioni che poi sono molto semplici, perché comunque sia i sistemi bancari avevano a disposizione tantissimi dati e il task era riconoscere 9 numeri, cioè dallo 10 numeri, dallo 0 al 9, cioè era molto semplice. Qua inizia a esserci appunto, se vogliamo, proprio sempre di più l'aspetto commerciale della cosa, cioè qua si iniziava a generare tutto quell'effetto di stupore in cui ehi, una macchina ha fatto una cosa incredibile, però qua ancora lo stupore era fortemente legato comunque sia all'efficienza e l'efficacia, cioè che anziché avere un impiegato sul gobbone lì a guardare tutti i documenti e a leggere senza mai sbagliare, tra l'altro un 1, un 2, uno 0, un 4, un 6, ora si poteva fare con delle macchine. E tra l'altro questo si inseriva anche in un periodo in cui magari il geist dell'epoca era al limite spingere verso un sogno di liberazione dell'uomo dal lavoro, per esempio, esatto. Comunque semplificargli la vita. Ora ad esempio questa cosa non c'è più. Ha funzionato bene. No. Sì, fra l'altro. No, si stanno riallineando sulle 6 ore, ma ovviamente su poi un taglio delle retribuzioni, che quindi non so quanto... No, ma che pensavo è buffo, che non è che adesso l'intelligenza artificiale ti viene venduta come qualcosa che ti libererà dal lavoro. No. Cioè proprio ci hanno rinunciato perché continua a stare in ufficio, sai, al telefono. Infatti. Oppure tipo un robot che è pericolosissimo, che magari sbaglia, ti dà un labbrone, ti ammazza. Cioè, però ti ha fatto un tè incredibile. Esatto. Quindi sì, niente, eravamo rimasti a questa prima spettacolarizzazione di questi apprendimenti automatici che vengono fatti negli anni 90, insomma hanno come precursore figura centrale questo Jan LeCun che continuo a citare perché poi tornerà insomma nel nostro racconto e ripeto, insomma attualmente lui è... non so se capo, però insomma un ricercatore molto molto importante di Facebook, Meta, quelle robe là, insomma. Certo, certo. E viene tuttora considerato come un guru proprio di tutto il machine learning. Quindi arriviamo invece un po' più ai giorni nostri, giusto? Sì. Per quanto riguarda il machine learning, perché ci parlavi un po' degli anni 90, però sono stati fatti. Sì, perché appunto poi insomma alla prova, tant'è che poi effettivamente le banche non lo introdussero davvero come meccanismo, Sì, proprio perché comunque sia ogni tanto sbagliavano e quegli errori che facevano erano comunque sia grossi. Troppo gravi per una banca, quindi ancora non siamo nella diffusione massiccia del machine learning. Questa di nuovo va un po' in cavalleria, come si dice, sì. Ho detto bene, per un'altra quindicina, ventina di anni più o meno, fino alla fine dei primi 2010, insomma quel periodo là, che coincide, per capirsi, con una nuova invece come si dice, una crescita nella potenza di calcolo dei personal computer che arrivavano, sì, cioè un nuovo slancio, un bello slancio con le GPU e tutte queste robe qua, e riparte un fondamentalmente un grande interesse di ricerca e di sviluppo sul machine learning, che è quello che poi invece ci stiamo sorbendo tuttora, che diventa, che è proprio forse l'hype principale che viene rilanciato di continuo, insomma, questi giorni. Questa, diciamo che se abbiamo detto che Turing imponeva alla macchina le sue regole, se abbiamo detto che negli anni 90 si facevano imparare automagicamente, ma ci si aspettava al massimo il risultato pari a quello dell'uomo, con quest'ultima mandata di machine learning è sempre più presente nel racconto, quantomeno, il discorso di generalità e di superumanesimo, cioè di far sì che queste macchine riescano a ottenere performance che siano superumane, cioè migliori di un essere umano. Questo concettualmente è sempre esistito, però ora è diventato proprio, cioè che tra ricercatori ci si dice: ehi, ce l'hai fatta essere superumano oppure no? Che è una cagata, nessuno ci riesce in pratica. Sì, tra l'altro questo ora ci sarebbe da parlarne per mille anni, non abbiamo veramente il tempo, perché si devierebbe troppo, però tutto ciò di cui vi parliamo oggi, che ve ne parliamo da un punto di vista molto più tecnico probabilmente e anche un po' politico, certo, però è accompagnato da un forte contorno filosofico, ideologico, enorme, sì. Di cui non abbiamo tempo di parlare, che però è altrettanto interessante e che comunque appunto ruota intorno al concetto di postumano fino ad arrivare al superumano e transumanesimo e quant'altro, passando per il riduzionismo eccetera eccetera. Ora non c'è il tempo, però insomma ce la vendono bene, ecco. Sì. Sono curioso di una cosa, no? Hai detto il superumano e poi il generalismo, cioè quanto è generale un'intelligenza artificiale. E a riguardo ho visto per esempio una delle intelligenze artificiali che generano immagini e vedevo che in effetti sono due intelligenze artificiali, una che controlla cosa è disegnato veramente e l'altra che disegna. Quindi questa accoppiata qui, cioè fondamentalmente il generale è un termine molto vago. Penso che il termine più giusto sia accrocchio, letteralmente. Ah, okay. Si vende un risultato come stupefacente, sì, senza dichiarare quali sono le condizioni al contorno che gli do. Cioè magari capita che queste intelligenze siano tremendamente brave in dei task specifici, mm-hmm, tipo mi viene sempre riconoscere le mele dalle pere, ma immaginatevi il task più di riconoscimento di immagine più complicato che vi può venire in mente. Se abbastanza immagini caratteristiche delle varie classi da classificare vengono date, quasi sicuramente ci riuscirà a predire giustamente la classe tra quelle immagini che ha visto, classe o insomma categoria, chiamatela come vi pare. Il punto è che mancherà completamente, sarà una volta che riceverà come input un tipo di immagine che non ha mai visto. Grande esempio è il cavallo, la puzzola e la zebra come riconoscimento di immagine. Immagina che perché ad esempio la zebra non è mai stata vista ed è bianca e nera come la puzzola, ma la forma del cavallo. Quando vede la zebra impazzisce. Ho detto giusto, è la puzzola bianca e nera. Sì. I miei amici confermatori. No, perché esatto, facciamo il test di Turing. Sì, no, davvero. Scusate. Sto sempre cercando di fare esempi molto terra, però insomma spero che rendano l'idea. Si sta dicendo quindi che sì, in un certo senso tutto questo superumanesimo è assolutamente raccontato, non ha una controparte reale nelle performance che vengono ottenute, anche al netto delle cagate che può dire il dipendente di Google o quello o quell'altro. Tant'è proprio che invece al netto delle mie di opinioni, ma proprio Yann LeCun, quindi questo ricercatore guru primordiale del machine learning, ha pubblicato di recente un paper in cui dice: fermi tutti, smettete di parlare di AGI, Artificial General Intelligence, proprio perché queste robe qua mancano completamente di senso di generalità, senso comune, che sono le moderazione, che sono delle qualità, delle prerogative che abbiamo come esseri umani, eventualmente, non tutti, tutte, però si tende nell'idealizzazione dell'intelligenza a aspettarsi da appunto un'intelligenza la capacità di generalizzare, aver senso comune, di non andare in pappa automatico, proprio immediatamente di fronte allo sconosciuto, all'inconscio, all'imprevisto o a una zebra, esatto. E quindi non siamo solo noi, ecco, che diciamo questa cosa, cioè in ambito poi di ricerca e più tecnico-scientifico, insomma, ci sono delle cose, ripeto, delle performance di certi task specifici incredibili, anche magari composti, quindi magari che hai tante intelligenze in cascata, in parallelo, che fanno tanti task insieme, te li presenti come un'unica intelligenza, ma in verità sono tante. È solo l'aspetto fuffa commerciale, poi alla fine, cioè il prodotto finale lo faccio con tutte queste intelligenze artificiali, e poi a livello commerciale dico: è questa qui. Una persona armata di buona retorica ti potrebbe dire appunto che il cervello è così complesso che è fatto da tante intelligenze, volendo. Però appunto nella pratica troviamo questo meccanismo insomma un meccanismo di marketing, proprio di buzzword, cioè di dire comunque sia appunto o l'algoritmo, che era diciamo il punto iniziale di questa puntata, o il machine learning o il modello predittivo. È buffo, ad esempio, in Italia come nella terminologia io nella mia testa fa sempre più figo dirlo in inglese. Predittivo e prevenzione? Però magari tipo modello predittivo, sì. O AI. Però fondamentalmente stai dicendo la stessa cosa, cioè stai parlando dello stesso attrezzo. Anche perché intelligenza artificiale sottintende molte più cose che non un modello predittivo. Un modello predittivo sembra un po' più da poveri di spirito. Sì, no, cioè, è vero, fa molto meno figo, però insomma, per quanto... Cioè uno, per chi poi è addetto ai lavori, è davvero, secondo me, cioè è difficile vedere tutte queste differenze appunto tra la mia calcolatrice o un computer che fa quel calcolo tantissime volte ripetutamente. Per provare a sintetizzare quello che stiamo dicendo e per probabilmente dare degli elementi a cui ancorarsi per anche continuare poi in quello che diremo. Cioè, di base machine learning, correggimi se sbaglio, in fondo non si tratta di molto di più se non dare in pasto a una macchina un boato di dati, di associazioni, di cose da catalogare, catalogate e che quella macchina deve in qualche modo vedere, deve apprendere. E poi da lì fargli domande che riguardano questi dati che ha ottenuto. Quanti più dati tu gli darai, quanto più quella macchina sarà in grado di avere anche un background, di avere un contesto che gli permetterà di rispondere correttamente, o almeno come ci si aspetta che risponda. L'esempio che si faceva prima fuori dai microfoni, siccome poi appunto l'immaginario che viene sull'eticato è questo, no? del superumano, e quindi della macchina che riesce a imitare perfettamente l'umano e anzi a superarla, è che una delle appunto leggevo dei limiti che sembrano avere ancora le macchine riguardano tutta la sfera emotiva dell'essere umano. Quindi sì, ok, io sono in grado, la macchina è in grado di scegliere tra una mela una pera, se dirmi se quella è una mela o una pera, però per esempio di fronte a un'immagine inquietante, un essere umano probabilmente di qualsiasi provenienza geografica, età e genere, quel che ci pare, probabilmente risponderà che quell'immagine la trova inquietante. Una macchina non ha, non è in grado, cioè non ha questa informazione. A meno che non abbia visto a meno che non abbia tantissimi dati su quella persona. Esatto, a meno che tu non gli abbia dato un botto di dati dove quella fotografia viene giudicata da altrettanti esseri umani come inquietante. Allora, dopo la milionesima volta, quella macchina ti risponderà: sì, questa foto secondo me è inquietante. Al che va bene, interessante, bello, utile, se ne deducono anche tante cose molto importanti, però non è che quella macchina da sola è stata in grado di dire è inquietante, è che ha preso, come dire, ha assimilato molti dati. Da qui però chiaramente la dinamica è, siccome poi alla fine le intelligenze artificiali ci arriveremo magari verso la fine, però vengono spinte non a caso dalle stesse aziende, le stesse persone che poi sono quelle che collezionano miliardi di dati, non a caso Google ci sta investendo tantissimo. La domandona di cosa se ne fanno di tutti i nostri dati, capite bene che è abbastanza, come dire, connessa, nel senso è chiaro che tutto ciò non sarebbe possibile se non avessero a disposizione questi miliardi di dati. Sì, su questa cosa ci sono due cose che mi vengono in mente. Allora, sicuramente, come hai appena detto, cioè la centralità del dato, quindi nel senso a prescindere dall'algoritmo, qualsiasi esso sia, l'apprendimento può avvenire proprio soltanto se c'è del dato, e ovviamente questo rende crea dei sistemi di monopolio che sono ben noti, tant'è che ad esempio invece per essere un pochino di nuovo più nerd, è grande prassi pubblicare open source il codice delle intelligenze artificiali ma non i dati. Certo. appunto, proprio per tornare a che cos'è l'algoritmo e che cos'è il dato, no? Quello che si diceva prima, cioè appunto l'algoritmo te lo dico anche che ci ho fatto, sti cazzi, sì. Tanto se non c'è i dati non ci fa niente. Quindi questo è, secondo me, come hai detto, è fondamentale da capire, cioè, e che ritorna sempre a quei concetti di mimesi che si diceva prima. Dall'altro lato invece anche di più, invece ci faccio le pulce a noi, cioè come persone sì, molto critiche sull'argomento, non è del tutto vero che è solo brutta forza. Esistono, ecco, meccanismi più interessanti e più ibridi, dove appunto si cerca di un po' proiettare dei aspetti della nostra conoscenza su questo apprendimento, ad esempio nei testi, ad esempio molto spesso i chatbot hanno delle intelligenze artificiali dietro. Storicamente il natural language processing si basava su proprio prendere tantissimo testo e solo su una semplicissima base statistica di base creare uno spazio, diciamo, immaginario dove le parole erano disposte e ad esempio le parole sinonime erano vicine e le parole opposte molto lontane, e questo si veniva fatto solo su base proprio di frequenza statistica, cioè quante volte un termine appariva accanto ad un altro. Noi non ragioniamo così un testo, non è che quando leggo che una parola ragiono: ah sì, l'ho vista 7 volte. Ho un meccanismo un pochino più complesso, quantomeno in cui la frase, ad esempio, viene concepita come un tutt'uno. Quindi guardi tutta la frase, non soltanto l'intorno stretto, ad esempio, o che so io. Queste sono tipologie di, ad esempio, concezioni che noi abbiamo del mondo intorno a noi che poi possiamo riproiettare in questi apprendimenti. Quindi insomma, questo era per dire solo che è vero che sono brutti e cattivi, però ci sono oggettivamente certo. Degli aspetti fascinabili, affascinanti e anche non necessariamente cioè non in astratto, ecco, atroci, sempre con il grande filtro che queste cioè che la tecnologia non è neutrale, quindi non è nemmeno l'utilizzo che se ne fa che può essere, ecco, arbitro della qualità di quello strumento. Infatti, scusa, posto che abbiamo un po' forse dipanato la questione su almeno nei termini essenziali, altri aspetti interessanti che ti vengono in mente, cioè nel senso che hai detto tutte le cose noiose. No, nel senso che in realtà, cioè, appunto, siamo molto bravi probabilmente a dire tutte le cose atroci, appunto, che ci spaventano su questa cosa, e le diremo perché ne abbiamo ancora in canna parecchie. Però effettivamente il potenziale di alcune cose, sì, sì, forse anche più nello studio, perché alla fine il discorso a cui accennavi te sul linguaggio è un qualcosa che non è tanto interessante il risultato finale quanto come ci si è arrivati, sì, effettivamente. Sì, un po' sì, però appunto lì ora effettivamente lo sforzo è davvero molto intellettuale di ricercare un valore scientifico in quel modello piuttosto che in un altro, okay. Quindi no, ci sono poi, secondo me, dei più che delle applicazioni in sé, proprio delle persone che lo applicano in maniera diversa, in maniera più buffa, più interessante. Ad esempio, un aspetto, ecco, sì, che ci siamo dimenticati di citare, insomma, ci siamo dimenticati, ma è super importante, è che queste. Che tutta l'intelligenza artificiale ha insomma, un costo energetico che è proprio senza senso. Questo ci arriveremo dopo. Sì, no, però ad esempio ci sono anche, si stanno sviluppando sempre di più, abbastanza in parallelo, il machine learning sugli embedded, cioè sugli oggetti embedded, e in alcuni casi le applicazioni di questi oggetti invece secondo me è molto buffa, tipo ci sono dei tipi che si chiamano Rainforest Connection, che facevano, ad esempio, ho visto che recuperavano degli smartphone usati, vecchi, e utilizzavano il microfono interno a questi smartphone per fare monitoraggio ambientale in zone protette o per fare censimenti su degli animali, sempre che appunto anche lì mi sembra, non sto giustificando questo utilizzo, è semplicemente che quantomeno rispetto all'uso spettacolarizzante, consumistico, che di continuo ci viene proposto anche da veramente ormai il macellaio sotto casa, quantomeno ci sono un pochino di qualche realtà che almeno ci prova. Certo. Sono poche oggettivamente, proprio per il fatto che il monopolio del dato è comunque sia è centrale in tutto il machine learning, e quei dati ce l'hanno in genere molte poche persone. Quindi niente. Siamo, secondo voi, giunti al momento di un altro pezzo musicale? Facciamo uno stacchetto? Direi, sì. Perché ci avremmo qui Atmosphere, God's Bedroom Floor. Non so se non ti ricordi, l'hai scelto te il pezzo, quindi no, l'ha scelto lui. Io. Non c'entro niente. La responsabilità io. Ah. Io sono una macchina. Io faccio questo disegnetto bello. Cioè, io il pupazzo del Wombat. Ah, voi due l'avete scelto. Sì. Bene, bene. Change, rush, floor, life, from a head full of pressure as the senses that I clutch. Made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. I got touched by a hazy shade of God, help me change. Caught a rush on the floor from the life in my veins. From a head full of pressure as the senses that I clutched. Made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. I got touched by a hazy shade of God, help me change. Caught a rush on the floor from the life in my veins. It goes one for the cannabis and two for your Dianetics, three for the reasoning and four for those that try to get it, and five for your love and six for the stress and seven for the day that I climbed into this mess. From a head full of pressure, rest the senses that I clutch. I made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. And I got touched by a shade of help me change, and caught a rush on the floor from the life in my veins. I'm catching ulcers from the childproof lighters and all of these fine tooth fighters that keep the wires in my head tighter. I'm tired out by the distances achieved, walking in my sleep. Thoughts got shifted since the high, got a tad too deep. Asked dad to keep cool, I call him back soon as I resume normal and get out of this bathroom. And call management to seek some reimbursement for the nerve endings that burnt from the first hits. From a head full of pressure as the senses that I clutched. Made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. I got touched by a hazy shade of God, help me change. Caught a rush on the floor from the life in my veins. Head full of pressure as the senses that I clutched. Made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. And I got touched by a hazy shade of God, help me change. Caught a rush on the floor from the life in my veins. So fuck needles, fuck smoke, fuck lines that make the sinus choke. Fuck chases, trails, fuck waves and rails. Fuck hangovers, fuck hallucinations, regurgitations, mandatory sentences, and you wait tracing. Blind my insight and dull the common sense. Give me inhibition, kill the superstition and the confidence. Built a tolerance, now it's more that I consume. And when it pours up my room, the world's whores will croon in unison. Unify the eulogy, autopsy pages read euthanasia, i.e. irony. Well, here I be, within a pool of my drool, sedated, windows dilated, comatose, life overdose. Tell Jacob Miles, keep it wild style. I promise I'll smile and check the floor, God's got nice tile. Tell Jake Miles, keep that shit wild style, and I'll smile and check the floor, God's got nice tile. From a head full of pressure as the senses that I clutched. Made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. And I got touched by a hazy shade of God, help me change. Caught a rush on the floor from the life in my veins. From a head full of pressure as the senses that I clutched. I made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. And I got touched by a hazy shade, God help me, and caught a rush on the floor from the life in my veins. Head, pressure, senses, clutch, date, divinity, wouldn't fuck. Touched, hazy, God, change, rush, floor, life. E rieccoci in regia, in studio, come si dice, in onda. In ufficio. No, in ufficio no. Sì, dai, è un sogno in ufficio. Magari. Radio Wombat, Lovelace, stavamo parlando di intelligenza artificiale, di machine learning, algoritmi, tutte queste cosette. E a questo punto siamo arrivati all'accetta. Sì, perché siamo stati abbastanza soft finora, forse. Sì, abbiamo cercato di fare questo excursus, quindi sulla storia dell'algoritmo, la sua evoluzione, il suo limite tecnico, la sua generalità, le implicazioni filosofiche che non vi abbiamo detto ma che vi facciamo sognare. E adesso iniziamo a parlarne un pochino male. Sì, ora ci stiamo. Basta. Tutto questo buonismo. Sì, no, davvero, basta. E quindi attacchiamo subito il contemporaneo cavolo di tutta l'arte generativa, tutta questa roba del oh guarda una cosa autogenerata, wow, è arte o non è arte? No, non lo è, e soprattutto non ci interessa minimamente questa discussione, se non nella misura in cui è legata alla pochezza, la noia e alla scarsissima creatività dell'essere umano in senso collettivo di questi tempi, forse se non so, almeno questa è la nostra opinione. nulla la nostra, scusate, la mia opinione. Per Dio. Però, ad esempio, qua, no, a parte scherzi, una minima, insomma, cosa seria da dire è che invece sempre qua in senso tecnico è veramente la paraculata definitiva, perché se almeno i task che si faceva, a cui facevamo riferimento prima, erano specifici, però avevano, diciamo, un banco di prova, questa roba qua non c'ha nemmeno quella, quindi davvero vale tutto, cioè qualsiasi cosa produco è lecito, è buono, anzi, più è inimmaginabile, e tra l'altro pensateci, dare un commento, cioè scrivere in un prompt di testo tipo voglio un quadro di Dalì che non ho mai visto per farselo pubblicare, è una cosa veramente assurda. Parliamo del contesto, cioè cerchiamo di dire per chi magari non ha visto esempio, non sa bene di cosa stiamo parlando, cioè questo spunto ce l'ha dato un articolo uscito, se non sbaglio, ieri, comunque in questa settimana, nella su Guerre di Rete, dove fondamentalmente un articolo che parlava appunto in maniera in parte preoccupata, in parte probabilmente anche un po' affascinata, del appunto dell'arte generativa, che quindi sono queste fondamentalmente opere d'arte generate completamente da un computer, sì, cioè comunque senza che l'essere umano gli dica cosa fare, tipicamente o mescolando delle immagini esistenti oppure ricevendo come input, che ne so, un testo che dice un cane al mare che mangia un aeroplano e prova a ricreare quell'input. Sì, anche esatto. Lì torniamo indietro a quello che si diceva prima. Se il computer gli chiede di disegnare un cane al mare è perché ha miliardi e miliardi di immagini di cani, ha miliardi di immagini di mari, probabilmente anche miliardi di immagini di cani al mare, e quindi te lo riproduce. Ma infatti, ad esempio, uno degli aspetti, ad esempio, una di queste delle intelligenze, di questi modelli ultimi, che sto creando, si chiama DALL-E in particolare, che è in grado di ricevere un testo e di creare un'immagine, cioè lo stupore in sé è dato proprio dalla specificità dei risultati, cioè che se tu citi Fracazzo da Velletri ti becchi Fracazzo da Velletri. Questo è semplicemente un esemplificativo del monopolio sul dato, non della capacità dell'algoritmo. Sì, anche perché se ci pensate bene non è molto diverso, infatti a me, devo dire, confesso che mi stupisce molto poco, cioè non perché sono figa, ma sì, perché sì, davvero non suscita su di me sto gran stupore, perché ho iniziato a stupirmi e forse poi non mi sono stupita più su Google Image, cioè il momento in cui io scrivo cane su Google con le lettere e poi clicco sul tab dei disegni e mi appaiono dei disegni di cane, cioè abbiamo fatto, cioè una sì, volta sì, che riesco a ottenere questo risultato, poi il farglielo disegnare mi sembra, come dire, lo scalino successivo. Appunto, è tutta una spettacolarizzazione del marginale, costantemente, comunque sia, o dell'ultra nicchia. Questo è appunto quello che si diceva prima, di mancanza di generalità, ma anche proprio nell'interesse generale, oltre che nella generalità di capacità, ecco, insomma. E venendo appunto gli aspetti veramente deleteri di tutta questa faccenda, intanto l'abbiamo citato un po' all'inizio così en passant, ma entriamoci meglio, il consumo di risorse, intanto, come primo punto, cioè il buffo, no? Che poi sono poi le stesse aziende che ti parlano che fanno greenwashing, che parlano di risorse, questo e quest'altro, poi di base questa tecnologia si basa su un consumo di risorse immenso che non accenna a diminuire, non ha nessuna intenzione di diminuire, anzi ha bisogno di essere incrementato. Abbiamo parlato di Taiwan, abbiamo parlato in altre puntate dei chip, di quanto costa produrre dei chip in termini di risorse ambientali. E in questo caso c'è un l'apporto, a parte ovviamente anche per esempio per i computer, tutto il gaming sulle GPU fondamentalmente, che consumano tantissimo, cioè la renderizzazione grafica è un processo super dispendioso, ma in particolare di cloud computing, cioè tutte quelle piattaforme online di base che concedono del calcolo da remoto. Va proprio così, ormai l'avrete capito se ci avete davvero ascoltato, che anche queste piattaforme di cloud computing sono oggetto di monopolio, perché le più grosse sono di Facebook e Google e Amazon. Quindi ma proprio queste tre, non è che ce ne sono troppe di più. E mantenere queste infrastrutture di cloud non è che è proprio gratis, con termini di elettricità. No, assolutamente. Addirittura, appunto, c'è proprio tutta una zonizzazione. Ma purtroppo. Ora non so se ritroviamo, ci sono delle stime, ad esempio, del nodo Amazon dell'Europa orientale, che praticamente consumava da solo quanto la Finlandia, una cosa del genere. Ci sono comunque sia la parte energetica è davvero. Cioè, disarmante il consumo che ha, sia proprio perché comunque sia si tratta sempre in ogni caso di CPU molto performanti o comunque sia GPU, anche se in cloud computing, e poi c'è tutta la questione di muovere tutti questi dati sull'internet, che non è sottovalutabile, perché comunque sia ogni volta che si lancia un modello in remoto ci si manda il modello, i dati e tutte le varie cose. Ma infatti io ti volevo chiedere proprio nel dettaglio, perché non le so queste cose. Ma cioè, secondo te, da un punto di vista proprio tecnico, immagino che il consumo di risorse sia intanto durante la fase di machine learning, cioè durante l'apprendimento, quindi quando do in pasto questo dataset di cui si parlava alla macchina che deve fare questo apprendimento, ok? Lì c'è chiaramente una grossa mole da elaborarla di continuo, quindi questa roba durerà molto tempo, immagino. Dipende dalla profondità di questo calcolo, quindi da quanto è difficile, dai dati, sì. Però voglio dire, per farsi un'idea, non è una roba che te gli lanci un comando e questo in 2 giorni, cioè in 5 minuti la finisce. Tendenzialmente robe più sono complesse più dureranno ore. Ah sì, giorni. Giorni. Oh. Sì, ok. Per dare dei parametri, no? Che non è semplice, proprio perché in genere non vengono dati, cioè sono tenuti oscuri queste questioni, però ecco, diciamo che sarebbe in una scala di wow di una persona generica un bel wow, almeno una settimana di allenamento in genere se lo fa. Esatto. Ecco. E poi mi chiedevo, ma è una volta fatto l'allenamento, poi dopo una volta che ogni volta, per esempio, i giochini che troviamo in rete, no, per fare tipo, che ne so, il mashup tra Angelina Jolie e Obama. Sì. Ma quella roba lì quanto mi consuma? Perché mi ha sicuramente consumato un sacco di energia al momento di allenare la macchina per poterlo poi fare. Ma quando poi lo fa? Ma che ne so, i deepfake, quelli di Obama che girarono. Cioè si parla di ore di video reali di Obama che sono stati processati ripetutamente tantissime volte, se non sbaglio si parla di centinaia di ore di video che poi vengono analizzati da queste intelligenze come frame, quindi come singole immagini, insomma. Ora non ci mettiamo a fare il conto, ma immaginatevi, no, però scomporre il video in immagini e prendere, e poi dopo ogni frame diventa un input che viene analizzato sia come frame che come sequenza di frame tantissime volte, quindi. E poi immagino appunto che quando poi ti vado a fare domande su quella cosa, poi tu dovrai riconsumare energie per andare a riscandagliare. Diciamo, questa è uno dei punti, infatti, che in genere in maniera del tutto strumentale viene usata l'intelligenza artificiale, che te dici, vabbè, fai fatica solo una volta, quello volevo capire. E poi dopo invece sarai più sciolto. Effettivamente è così, cioè il grosso del consumo è iniziale, quello sì, però sta di fatto che la prassi vuole che i nostri interessi siano labili, i dati su cui si gioca o abbiamo interesse siano dinamici, quindi cambino, e cambiare vuol dire rifarlo, e quindi se lo devo rifare una volta anche solo ogni 6 mesi insomma, certo. c'è comunque sia una ripetitività. Perché le macchine non smettono mai di imparare, come no. No. Tra l'altro, ecco, un altro punto, ad esempio, è che la ridondanza di questi calcoli, cioè tantissime persone che fanno tutte la stessa cosa senza condividersi i dati, certo. Che è un altro punto, cioè, di condivisione della... Cioè, quando scrivo il codice, io, se uno l'ha già scritto, prendo quello, non è che lo riscrivo, perché devo riscrivere, non mi importa. Nel mio cervello funzionerebbe così anche per un motorino o per un'intelligenza artificiale. Funziona, condividiamolo. Però. Mi sembra giusto. E quindi, arrivando all'altra parte di quello che ci dicevamo sugli aspetti delle serie, c'è proprio appunto il fatto che questo è un tipo di tecnologia oggettivamente inaccessibile ai poracci, cioè, nel senso, è qualcosa che più o meno, per poterla mettere in atto, almeno adesso, cioè, poi chissà, però almeno allo stato dell'arte di adesso, cioè, di base, o sei una mega, boh, mega non lo so, però insomma, diciamo, è sempre è molto ambiguo il, cioè, queste aziende enormi negli ultimi anni hanno, sappiamo bene come hanno giocato sul concetto di open source, di disponibilità, quindi in verità un primo ingresso è fornito in genere in forma gratuita a tutti, ed è una forma stimolante o boh, non lo so, cioè, giochino, loro, esatto, una gamification in genere, appunto, posta come tizio c'ha un problema, lo pone e la gente ci prova a risolverlo. Quindi su quell'approccio lì, diciamo, sì, assolutamente, è un ha un carattere di classe, nel senso di costo e anche di accessibilità, indubbiamente, ma viene un po' aggirato da queste macro aziende, ecco, nella percezione che se ne ha, perché comunque sia il primo accesso ti viene dato, una macchina, un'istanza, come si chiamano, media, te la danno, però è vero che quando poi un po' di spazio cloud, proprio di storage, te lo danno, che poi non ci fai niente. È quello, perché poi invece devi fare un qualcosa di... lì ti servono la mole di dati e sì, quelli, esatto, non ce l'avrai mai. Sì, sì, sì. O la potenza di calcolo. O lo fai di lavoro. Sì, cioè, poi inizi a lavorare per loro, magari. Sì, però... sì, sì. Loro. No, il fatto appunto che ha creato... Cioè, lì c'è semmai quel meccanismo di hype in cui aziende che non hanno bisogno, in realtà che non hanno bisogno, inseguono appunto questa California. Io me l'immagino che sognano la notte, appunto, i computer. Non lo so, che devo fare, boh, non lo so. Che angoscia. Sì. Altra cosa, aspetto, che viene sottolineato spesso, devo dire questo, che ormai è, appunto, non ve lo diciamo noi, nel senso, ve lo diciamo, ma l'avrete già sentito dire, il potere di chi fa i dataset. Cioè, se abbiamo detto che le macchine sanno decidere una cosa in base agli esempi che hanno avuto, è chiaro che se gli diamo esempi tutti di un certo tipo, loro poi ti risponderanno sempre con quell'esempio. Quindi da qui i dataset, sì, razzisti, i dataset incentrati tutti sull'uomo bianco occidentale. Sì, sì, no, tanto appunto proprio i due esempi che hai citato adesso, quindi il razzismo e la centralità dell'uomo bianco sì, occidentale, quelle sono, diciamo, paradossalmente forme latenti di razzismo, perché addirittura magari la persona che ha inizialmente provato a usare, a fare apprendimento, che ne so, di immagini per la questione del razzismo, o magari su dei testi per proprio la centralità dell'uomo bianco mitteleuropeo, che ne so, quelli sono aspetti del razzismo dell'uomo bianco intrinsechi al dato. Cioè, se io mediamente prendo dei dati generici di immagini, otterrò quei cosiddetti bias o suggestioni nel mio modo, e poi predire, prevedere. Questo per dire appunto di nuovo che algoritmo e dato si toccano ma non coincidono. L'algoritmo in questo caso rispecchia quel razzismo che è già nel dato e che è collezionato e basta in questo caso dall'uomo. Quindi si fa una doppia fatica se l'ottica è quella di fare qualcosa di buono, perché addirittura si dice no, non faccio fatica e non proietto, diciamo, il mio modello nella macchina, e addirittura gli do un dato che mi rimette dentro lo stesso magari razzismo che proprio facciamo per una volta invece i ben pensanti, mettiamo che proprio la persona non voleva metterci dentro ma ce lo sta mettendo perché non ha avuto abbastanza attenzione a certe sensibilità che esistono dentro i dati. Quindi questo sì, è uno degli aspetti centrali, anche perché poi ad esempio in tante, ad esempio, forme di classificazione, cioè in generale quando si fa apprendimento si cerca di avere, immaginiamoci sempre il problema classico di classificazione in cui ricevo delle immagini e devo classificarle in 4, 5, n categorie diverse. La condizione ideale è che il mio dataset ha lo stesso numero di immagini, di esempi, diciamo, per ogni delle categorie che devo predire, cioè 50 della prima, 50 della seconda, 50 della terza, 50 della quarta, di modo che mediamente mi aspetto che appunto ogni categoria sia equiprobabile. Ovviamente i dati che in genere, cioè siamo abbastanza pecore come esseri umani, quindi tendiamo a avere comportamenti molto simili. In questa similitudine di comportamenti poi i dataset che si creano in verità sono fatti praticamente sempre da 1 a 2 categorie delle mille possibili. Quindi c'è una gara a ritroso al contrario per cercare di ribilanciare spesso questi dataset in cui si aggiungono ulteriori danni, perché io dico aspetta, qui in questo dataset ho solo queste due categorie, ho bisogno di rafforzare almeno le altre 8, le altre 10, e si creano o artificialmente dei dati o artificialmente si tagliano via i dati in surplus delle due sovra rappresentate, però magari quelle due sovrarappresentate lo sono per un buon motivo, perché sono le più comuni. Certo. Quindi è un sì, quindi anche quando vuoi essere un po' più, come dire, cioè riequilibrare, in realtà stai probabilmente... Il rischio è molto molto alto, quello sicuramente, perché te magari appunto poi artificialmente ti crei un altro problema, cioè ah ok, ora c'ho il dataset bilanciato e in questa roba qua sono bravissimo, ma il mondo reale non è quello, capito? Sì. Quindi, e tra l'altro l'altro ultimo forse aspetto un po' problematico, avevamo visto, anche se insomma ce ne sarebbe milioni da dire, era che ci interessava perlomeno in questa serata affrontare, era la questione, proprio un po' l'accennavi te, all'omologazione degli esseri umani, nel senso che effettivamente tutto questo catalogare e poi da questi cataloghi trarre delle informazioni e farle sputare fuori una macchina, di fatto soprattutto posto insieme a tutto quell'apparato filosofico di stuporone che ci dicevamo prima, all'effetto che la macchina poi quando decreta una cosa la decreta, cioè ti dà la norma. Quindi certe... È costretta da produrti un risultato comunque. E quindi anche certi algoritmi di predizione, per esempio, cioè sistemi predittivi che cioè, non stupisce che poi appunto sui vari Facebook eccetera siamo spinti in una direzione che è la direzione preferita da tutti. Perché di base questo è il meccanismo, cioè il meccanismo che sta alla base di questo, di questa tecnologia di cui abbiamo parlato tutto oggi, è proprio quello di trarre la media, decidere dove più o meno pende la bilancia e fartici andare. Quindi si penalizza l'eccezione proprio per è ontologicamente tantissimo. Quindi di base è abbastanza connaturata alla tecnologia, anche in questo diciamo che non è una tecnologia neutra, che è proprio connaturato a questo tipo di tecnologia, il fatto di spingerti verso una standardizzazione in qualche maniera, e quindi a un riduzionismo delle tue milioni di sfumature che avresti, perché invece devi essere letto da una macchina. È un po' sì, a me la figura che mi sembra sempre più realistica è veramente una spirale, davvero, perché quel conformismo è rappresentativo in un certo senso dello stesso conformismo del dato, cioè che si tende, che mediamente siamo non siamo così originali, e quindi addirittura così facendo, cioè, enfatizziamo la media, no? Cioè riutilizziamo la stessa media da cui magari, esatto, si scappa, per rafforzarla ulteriormente in un certo senso. Quindi sì, assolutamente. Tra l'altro, cioè, anche cioè, quel dato bisogna vedere pure come me l'hai chiesto, nel senso che se tu mi hai chiesto cosa penso di una cosa in un contesto dove tutti gli altri stanno rispondendo che ne pensano bene, io magari sarò portata a dire che anch'io ne penso bene, anche se non magari in fondo io la pensavo un po' più grigia. Però perché il contesto mi fa dire mi fa dare questa risposta. Ma infatti sì, dici, rispetto a quello invece che si diceva prima, ad esempio, sulle capacità emotive. Ecco, sì, me l'ho dimenticato. In quei contesti là, ad esempio, più che una classificazione basata sui semplici esempi, la parola più comune per chi si occupa di machine learning è di collaborative filtering. Cioè di quei sistemi dinamici in cui mettite che ho come input sempre un po' di dati biometrici, geografici, sulla persona, cioè, e poi ho, ad esempio, una serie di informazioni che io deduco da altre persone simili a te. Certo. E che quindi costruisco il profilo dell'individuo sulla base dei tuoi simili, dei simili all'individuo stesso in un certo senso, e anche alle distanze da altri gruppi di individui simili. Questo proprio va da sé che è un meccanismo che va a tagliare fuori. Cioè, non è che elimina l'eterogeneità, ma la conforma, quindi crea dei filoni specifici dove verosimilmente cadrai. E anche lì non è interessante il dettaglio di quanto sia vasto questo ventaglio, considerato che magari dietro hai Google con tutti i suoi esempini, ma è proprio la capacità di capirti, di rappresentare l'umore di del momento in cui fai quella ricerca, o dello stato emotivo di quello che hai intenzione di ottenere, eccetera eccetera. Quindi sì, no, niente, però questo aspetto qua, ad esempio, non è da sottovalutare, proprio perché, ad esempio, per quello che riguarda gli aspetti più soggettivi, e quindi quello che abbiamo citato ora, ad esempio quello anche emotivo, si ricorre sempre a maggior ragione a delle medie, diciamo, di utilizzo, che hanno al loro interno quelle forme, come dicevi te, di suggestione. Cioè vedo tutti che fanno una cosa, 8 su 10 fanno la stessa, per spirito imitativo, per non essere differenti, per spirito di trend, o quello che è. Quindi sì, questa cosa qua è molto importante, perché in questo caso invece il fatto che appunto altri nella tua sfera abbiano un certo comportamento diventa autoalimentazione per il tuo comportamento, magari appunto conforme, mediano o quello che è. Sì, tra l'altro, appunto, è un argomento interessante anche poi tutti i vari rivoli, nel senso che poi queste cose ti fanno anche, tornando all'arte generativa, cioè per esempio ti farà sempre meno effetto, tanto più che tu la vedrai, per cui all'inizio ti sembra un qualcosa di artificiale, di strano, ti mette a disagio, poi piano piano ti ci inizierai a abituare. E come ci siamo abituati al fotoritocco, se ne parlava prima fuori microfoni, al fotoritocco nelle riviste di moda, nel senso, questo è una cosa che ormai è abbastanza data per assodato, nonostante tu non hai questo confronto nella realtà, nel senso che le modelle ritoccate nella vita di tutti i giorni, a meno che tu non lo so che vita fai, ma non le vedi. Le persone che incontri tutti i giorni, con cui vivi tutti i giorni, non sono così, non assomigliano a quell'essere umano, eppure tu hai quell'immagine, non ti fa più effetto, non riconosci che è artificiale nonostante sia artificiale. Sì, sì, sì. Quindi è molto strano, anche perché effettivamente tendiamo noi ad adeguarci a una, a un, a una norma che però in realtà è una riduzione di quello che siamo, è un appiattimento. Però ad esempio, no, la critica che veniva fatta storicamente, no, alla modella dell'alta moda di Parigi, di Milano, di Londra, di quel che è, era troppo perfetta. Sì, l'anoressia, il corpo sì, troppo magro. Però ad esempio quelle visioni del corpo della donna rientravano proprio, appunto, come si diceva prima, in un modello mentale di delle stesse persone che la proponevano. Quindi, per quanto osceno, c'era un po' un aspetto demiurgico, no? Cioè della persona, cioè la persona sta imponendo in quella fotografia, in quel ritratto, in quel vestito, in quel che è, la sua visione, a prescindere da quanto sia buona o cattiva. Ora invece si usa questo aspetto automagico per giustificare la decisione. Cioè della serie, appunto, ora non c'è più Valentino a cui puoi dire l'hai disegnata in quella maniera, nonostante poi invece te lo sta dicendo un algoritmo, esatto. Quindi è... nonostante poi invece dietro è come se c'è sì sì è come sì sì esatto sì. Bene, io direi che siamo quasi forse a chiusura. Ci ti siamo. Viene in mente qualcos'altro? Sì. C'è una curiosità, ho generato un paio di immagini, no? Sì, so anche io dei peccati. E sul fatto di generare immagini, che ci sa un dataset di altre immagini già fatte da persone reali. E qual è la linea tra quell'immagine l'ho fatta io, quindi l'immagine generata, che cos'è? Cioè effettivamente di chi è quell'immagine? Allora, è una cosa che non capisco. No, ma non la capisci te, non la capiscono in tanti, ed è anche una zona d'ombra, appunto, dove c'è margine, ecco, di azione, se uno vuole, in varie sfaccettature. Si diceva proprio prima, infatti, che ad esempio c'è stato un momento 3-4 anni fa in cui i deepfake erano proprio non all'ordine del giorno, però insomma facevano molta notizia. Quello di Obama e di Putin, mi sbaglio, erano, sì, mi ricordo, sì, ce n'era uno sì, famoso di loro due, se non sbaglio, che tipo sì, Obama poi diceva le cose di Putin e Putin quelle di Obama, una cosa del genere. Sì, sì. A parte sempre la questione del dato, quindi comunque sia, queste erano persone famose di cui c'erano tantissimi dati a disposizione, facilmente reperibili, sì. Ma uno degli aspetti ovviamente che è diventato problematici e a cui sono state fatte delle pressioni ad esempio ad Amazon e a Google per, insomma, andarci piano, era l'aspetto legale, il furto di identità, sì, la diffamazione, tutte queste robe qua. È un modo con il quale sto un po' sviando la domanda, cioè è una questione aperta, non c'è un nero su bianco, anche perché è molto differente come la gran cosa dell'informatica tra stato a stato, o almeno tra Unione Europea e sì, Stati Uniti quantomeno, e eccetera eccetera. Quindi sono abbastanza certo che sia illegale farlo in certi, teoricamente, comunque sia che sia perseguibile forse, però se la domanda è: si può verificare ad esempio che quel video era fasullo in maniera inequivocabile, si può ricondurre immediatamente l'autore di questa roba o cose del genere? Penso in astratto di sì, ma che nella pratica sia un bel accollo, quindi insomma deve essere ragionato prima di dire ok, ora si va a smontare quel video, quella cosa, penso. Sì. Una cosa che avevo notato, no? Perché era questo inghippo del creasti immagine dal nulla. E la questione che mi veniva in mente è il copyright, no? Metterla proprio a livello commerciale, la voglio mettere, perché cioè, questi la mettono, te vendono i piani, i premium, quello che si parlava anche prima, ti danno le entry, sì, che sì, è bassissimo, non ci fa niente, vuoi generare un bot di immagini? Paghi. Ok, e in quel momento è interessante la differenza, perché pagando su diversi servizi Poi l'immagine a livello di diritti è di chi la genera, secondo i loro termini e condizioni dell'account solo premium, però. E questa è una sfecciata, cioè è questo che mi interessa. Dov'è Stingip? Vabbè. Questi lo fanno perché non è una onlus, mi immagino. Oltre a crearsi un dataset, che fanno anche un training utilizzando i utenti, no? Assolutamente, enorme, sì. E in più, cioè pagando, c'hai i diritti su quell'immagine. Sì. Ed è Stingip qua, cioè No, di questa qua forse ne sa più. Cioè su si ritorna quasi sugli NFT, quindi a diciamo il diritto d'autore sull'immagine digitale in generale, entro certi termini. Però so ad esempio anche qua per certo che non c'è una regola chiara, un bianco e nero. Stanno... cioè nel senso appunto questa è una, come si dice, policy di quell'azienda, sì, là, che te l'ha fatto. Cioè non è una regola estranea quella, cioè che chi genera un'immagine con un modello poi diventa proprietario di quell'immagine, sì, o è proprio quell'azienda là che ha deciso di avere questa regola. E tra l'altro in genere queste robe qua hanno una forte componente di precedente, cioè si crea un precedente, si stabilizza quel precedente e poi diventa regola. Oh. cioè, il rischio è alto di questi, insomma, che ci sia questo andamento. Ecco. Sì. Okay. Cioè, i primi hanno fatto in quella maniera, la regola non c'è, ma facciamo che i primi dettano la regola. Chiaro, però facciamo tutti. Sì. Ok. E va bene, io intanto nel frattempo stavo cercando dei deepfake da usare come immagine del nostro podcast, quindi sto scoprendo delle cose orrende, sì, che è meglio che non vediate. E va bene, direi che però sì, è giunto il momento di salutarci, che è tardissimo, poi te ci stai morendo davanti con un pacchetto di fazzoletti, cioè abbiamo pietà di quest'uomo. Però direi che è necessario, siccome non l'abbiamo detto, ma è Halloween stasera. Porca Madonna! Non volevo dire quello, veramente. No, scusa, è così, ti è venuto. Non è Natale, no, è Halloween. E quindi secondo me ci dobbiamo lasciare con i Misfits, perché sì, è importante, con gli zombies. E vi diamo, vi diamo appuntamento tra due lunedì, chiaramente, sempre con Lovelace. Chissà di cosa parleremo, non facciamo pronostici perché non lo sappiamo tanto. Chi lo sa? Il nostro algoritmo del mercoledì. È vero, usate l'intelligenza artificiale per predire di cosa parleremo, se ci saremo. Sì, si chiama Arturo, è un ragazzo. Bene, a presto. Ciao, ciao. Ciao. Un attimo, perché non avevo fatto partire, certo. Faccio la canzone da ascensore. Da prima.